Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La strage a Dallas, un gruppo di cecchini spara sui poliziotti e ne uccide 5, si cercano bombe in città, un attacco feroce e premeditato, dice il presidente Obama. Il panico tra la folla, raccolta per una marcia contro le violenze contro gli afroamericani da parte delle forze dell'ordine. Solo 15 miliardi le sofferenze bancarie più a rischio, dice il governatore di Banca d'Italia Visco, per MPS un piano di smaltimento veloce dei crediti non esigibili. Attesa per l'autopsia di Emmanuel, ucciso da un razzista nelle Marche, servirà a ricostruire la dinamica. Aggressione di un migrante in spiaggia in Calabria. Calcio sarà dunque Portogallo-Francia alla finale degli europei. In Italia intanto Bielsa lascia la Lazio, la squadra ad Inzaghi. Si fanno chiamare territorio libero di Trieste, hanno deciso di non pagare le tasse. Il prefetto, sanzioni inevitabili e loro denunciano. Paradossi dell'accoglienza, Cona nel veneziano, un paese di 2.800 abitanti e 600 tra profughi e migranti, ospitati in un centro non riconosciuto. Un nuovo caso a Milano, in ospedale arriva un bambino gravemente denutrito, i genitori sono vegani. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, sul quale potrete trovare tutte le mattine le nostre anticipazioni dei temi che tratteremo in trasmissione e anche un quadro della giornata. In apertura dunque quello che è avvenuto a Dallas. Sono le 9 di sera, centinaia di persone sono in strada a Dallas per manifestare contro la morte di due cittadini afroamericani uccisi dalle forze dell'ordine. Poi gli spari, le urla, la folla che si disperde, 11 agenti rimangono a terra. Un'imboscata, spiega il capo della polizia Brown. Almeno due cecchini, probabilmente quattro, hanno sparato ai poliziotti. Alcuni sono stati colpiti alle spalle. Brown aggiorna costantemente la stampa, accanto a lui il sindaco. Un momento straziante, dice il primo cittadino. Parte la caccia all'uomo. Il centro della città è blindato. Ci sono le squadre antiterrorismo con i cani. Alcuni sospetti vengono fermati, uno poi rilasciato. Un uomo si barrica in un garage. Parla di bombe pronte a esplodere ovunque. Intanto il bilancio delle vittime si aggrava. Alcuni feriti, portati in ospedale, sono in condizioni critiche. I morti da 3 diventano 5. Una notte devastante, twitta la polizia di Dallas. Un attacco feroce e premeditato, commenta Barack Obama. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro della cronaca, l'analisi di Mario Platero. Abbiamo assistito, anzi stiamo assistendo in queste ore a una dinamica di eventi che ha dell'incredibile. Tutto nasce da un video con immagini di un realismo mai visto prima, una ragazza che mostra il suo fidanzato in un bagno di sangue, colpito a morte da un poliziotto. Lei che racconta la dinamica degli eventi. Filandro prendeva la patente, gli hanno sparato. Dietro c'è una bambina di 4 anni. L'uomo, Filandro Castile, 32 anni, un nutrizionista, nel video è ancora vivo. Poi si vede il volto rovesciato all'indietro e non si muove più. Una morte indiretta, insomma. Come dicevo, un documento che scatena forti emozioni. Il video è andato virale, lo hanno già visto in 5 milioni di persone, poi manifestazioni notturne in tutto il paese e le uccisioni premeditate, organizzate dei 5 poliziotti a Dallas, anche loro innocenti, perché questo è importante sottolinearlo. La spirale della violenza continua, la ferita aperta, l'incomprensione reciproca sempre più marcata qui in America. Non sappiamo dove questa spirale si fermerà, soprattutto adesso, per tristissima ironia, sembra peggiore questa ferita da quando c'è un presidente afroamericano alla Casa Bianca. E Mario Platero tornerà ovviamente alle 13.45 anche con un approfondimento su tutte queste vicende. Proseguono intanto a fermo le indagini e le reazioni sull'omicidio di un richiedente asilo. Le guance rigate dalle lacrime, il volto gonfio dal pianto. È un canto che assomiglia a un lamento, quello che Shineri ha intonato per Emmanuel, il compagno ucciso a Fermo dopo averla difesa da un insulto razzista, scimmia africana. La donna nigeriana ha partecipato alla veglia organizzata nel Prato di fronte al seminario diocesano che ospitava lei ed Emmanuel da quando, fuggiti dalla Nigeria, avevano trovato scampo in Italia. «Voglio andare in carcere», continua a ripetere lei. «Voglio guardare quest'uomo in faccia e chiedergli: perché mi hai fatto questo?» L'aggressore, Amedeo Mancini, è accusato di omicidio preterintenzionale con l'aggravante della finalità razzista. Sulla pagina Facebook degli Ultras di Fermo si prendono le distanze dal fatto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è odio razziale alimentato da politici dietro l'assassinio di Emmanuel Chidi Namdi, affermo. Così l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, sentiamola intervistata proprio da Valentina Furlanetto. Io ci ho pensato e come, perché per me quella vicenda non è finita. Era come aprire le porte dentro l'istituzione, ma anche fuori dall'istituzione, al razzismo, a questa liberazione da parte di tante persone che si permettono di dire quello che vogliono a chiunque. I senatori che hanno respinto l'autorizzazione a procedere per Calderoli 10 mesi fa, quando l'aveva chiamata Orango, sono dei cattivi maestri? Per me sì, e non c'è dubbio. Perché la politica deve sapere anche essere lungimirante, deve essere anche nell'interpretazione del proprio ruolo dentro e fuori dall'istituzione un esempio, proprio per accompagnare quel cambiamento che stiamo vivendo oggi. Gad Lerner propone che lei ritorni ad essere ministro per l'integrazione. Io oggi mi trovo molto bene in Europa. L'analisi di Daniele Biacchessi. Amedeo Mancini è l'assassino di Emmanuel Chidi Namdi. Secondo gli investigatori ha ucciso per odio razziale. Al di là della sua presenza costante negli stadi come tifoso della Fermana e più volte denunciato per fatti di violenza, è stato accertato che Amedeo Mancini simpatizza per formazioni di ultradestra marchigiane e più volte ha fatto parte di servizi d'ordine in manifestazioni di piazza a Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio. Ed è proprio verso questi ambienti andrebbero dirette le indagini per scoprire gli autori di numerosi attentati contro le chiese tra marzo e aprile scorsi. La bomba ritrovata sotto il portone della chiesa di San Gabriele dell'Addolorata a Campiglione di Fermo. 2 ordigni rudimentali scoppiati davanti al Duomo e all'ingresso della chiesa di San Tommaso, nel quartiere di Lido Tre Archi, quella che ha devastato l'ingresso della chiesa di San Marco alle Paludi. Non sappiamo se Mancini abbia avuto un ruolo in questi attentati. Sappiamo però che in molte parti d'Italia gruppi o singoli individui mischiano l'ideologia del superuomo di stampo nazista con l'odio razziale. E questo può innescare una nuova emergenza nel paese. Dunque, questo è il quadro da Fermo. Adesso cambiamo decisamente argomento e spostiamoci a parlare di economia e a parlare di banche. La giornata oggi sui mercati è ampiamente positiva e ci arriveremo più avanti, come sempre, nell'appuntamento delle 13.30. Intanto oggi si è riunita l'assemblea dell'ABI, mentre i riflettori restano puntati sul Monte dei Paschi. Iniziamo dunque dall'assemblea dell'ABI con Alessandra Schepisi che l'ha seguita. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Un intervento pubblico nel settore bancario italiano non può essere escluso, ne sono convinti entrambi, sia il governatore della Banca d'Italia Visco sia il ministro dell'Economia Padoan, intervenuti qui all'assemblea dell'ABI con riferimento in particolare a Montepaschi. Il numero uno di Palazzo Cocca ha parlato del rischio che in un contesto di elevata incertezza si intacchi la fiducia dei risparmiatori. Le sofferenze delle banche sono un problema serio, ha poi detto, anche se non c'è una emergenza, sono solo 15 miliardi quelle più a rischio, occorrono comunque interventi decisi per Visco che diano in tempi brevi un segnale di inversione di tendenze possibili, misure di sostegno, tutto ovviamente nel solco delle regole comunitarie. Sentiamo. La normativa europea prevede la possibilità di interventi pubblici di natura precauzionale anche sul fronte della capitalizzazione, con riferimento ai risultati delle prove di stress. Linea condivisa dal ministro Padoan, il quale spiega il dialogo con Bruxelles è continuo, allo scopo di esplorare tutte le modalità di intervento pubblico che deve essere di natura precauzionale, sempre nel rispetto delle regole europee. Sentiamo. La nuova normativa è molto esigente. La sua attuazione prevede elementi di flessibilità che vanno sfruttati in pieno, soprattutto in caso di rischio sistemico. E poco prima nel suo intervento il presidente dell'ABI Patuelli si era scagliato contro le nuove regole sui salvataggi bancari. Sentiamo. Occorre venga rivista al più presto la normativa sulle risoluzioni e sul bail-in, innanzitutto per ciò che contrasta con la Costituzione italiana. Il numero uno dell'ABI aveva infine difeso le banche, affermando che negli scorsi anni non hanno avuto i cospicui aiuti di Stato frequenti altrove, lamentando i troppi veti sull'Unione Bancaria Europea. Ed a Roma è tutto. E ti ringrazio, grazie ad Alessandra Schepisi, ma noi restiamo sul tema delle banche, in particolare del Monte dei Paschi, perché secondo un'anticipazione pubblicata oggi dal Sole 24 Ore si profilerebbe una soluzione a breve termine. Ne parliamo con Marco Ferrando, proprio del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno Simone. Allora, che cosa si attende, che cosa si prospetta? Ma si prospetta che succeda tutto più in fretta di quanto non si immaginava qualche giorno fa, nel senso che ormai da giorni sappiamo che il Monte dei Paschi è prestato dalla BCE, che è la vigilanza sulle banche europee, a cedere 10 miliardi di crediti deteriorati. Ieri si è radunato il CDA e secondo quanto trapela il CDA avrebbe esaminato un piano, diciamo lampo, l'abbiamo chiamato così, che potrebbe portare la banca a vendere, sperando di non svendere, tutti questi crediti deteriorati nell'arco di poche settimane. Perché? Perché in questo modo si darebbe una notizia certa al mercato e potrebbe avvalersi dell'eventuale garanzia pubblica sulla ricapitalizzazione che dovrebbe essere necessaria in tempi molto rapidi. Questo è un punto fondamentale, come dicevate prima, se ne è parlato all'ABI, perché l'Unione Europea deve autorizzarlo, la Commissione deve autorizzare il Paese, il Governo a poter entrare nel capitale o comunque farsi garante senza coinvolgere gli obbligazionisti. Questo è ancora un tema aperto. E ti ringrazio, grazie anche a Marco Ferrando per questo aggiornamento sulle banche. Veniamo alla politica, dove l'attenzione si concentra sì sulle banche, ma anche ovviamente sulla tenuta della maggioranza dopo l'inchiesta che ha toccato il ministro Alfano e sul referendum costituzionale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. Matteo Renzi cerca di rassicurare il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo lo scandalo che ha colpito il ministro degli interni Angelino Alfano. I numeri ci sono, vada avanti, dice, di fronte alle fibrillazioni del nuovo centrodestra, che assicura non si trasformeranno in una crisi di governo. Il premier avrebbe espresso fiducia proprio sulla tenuta dell'esecutivo e anche ribadito ai suoi che in caso di crisi sarà lui a dare le carte per la forte base parlamentare del PD alla Camera. Ma il vero obiettivo è far salire i consensi attorno al referendum d'autunno, quando gli italiani dovranno votare sulle riforme. Il ragionamento di Palazzo Chigi è che più i cittadini saranno informati, più cresceranno i consensi. Coinvolgere quindi anche gli italiani ad andare a votare, perché ricordiamo l'affluenza sarà determinante. Il referendum confermativo non ha quorum, ma devono crescere i sì che vanno a votare. Non si scarta l'ipotesi di uno spacchettamento del referendum, che però non piace al premier. Una cosa è certa: se il quesito dovesse essere bocciato, Renzi ribadisce di volersi dimettere e probabilmente di andare al voto. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo al calcio, iniziando però purtroppo da una notizia di cronaca nera, che è quella che ci arriva dagli europei, dove ieri un uomo è morto, anzi è morto questa mattina nell'ospedale nel quale era stato ricoverato dopo una rissa scoppiata al termine di Francia e Germania. Tra l'altro l'uomo non era coinvolto nella rissa, era seduto al tavolino di un bar sulla Place d'Armes ed è stato colpito da un tavolo col piede in ghisa. Nel frattempo, sul fronte strettamente calcistico, dunque, abbiamo questa finale, Portogallo-Francia. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Francia-Portogallo, infatti, domenica sera si affronteranno con la Francia, che un po' ci ha vendicati, abbiamo sfiancato la Germania e la Francia ha finito il lavoro vincendo 2-0 la partita di ieri sera. Gara equilibrata, la Germania ha tenuto di più la palla, il solito tiki-taka in tedesco, però la Francia l'ha punita alla fine, proprio nel recupero del primo tempo, complice una sciocchezza di Schweinsteiger, che ha procurato un rigore per un fallo di mano che Rizzoli, arbitro italiano, che ha diretto molto bene questa gara, ha visto benissimo, e che Griezmann, sempre più protagonista, superstar di questi europei, ha trasformato. Lo stesso Griezmann al 27esimo del secondo tempo ha poi chiuso il conto, complice una papera di Neuer. Ogni tanto sbaglia anche lui, il miglior portiere del mondo. Dunque 2-0 per la Francia, Germania che va a casa con le orecchie basse, e Pogba contro Cristiano Ronaldo, se vogliamo, la finale di domenica, che, approfitto per dire, racconteremo ai nostri ascoltatori domenica sera in uno speciale dalle 21, e quindi già preparatevi, segnatevelo, sì. Domenica siamo qui. Perfetto, speciale. E l'altra cosa, Carlo, per tornare alle cose nostre, cioè tutto questo casino che riguarda la Lazio, no? Casino che ha trovato una sua conclusione, cioè quella della rinuncia di Bielsa. Dunque Bielsa non arriverà in Italia, non a caso lo chiamano il Loco, aveva già firmato il contratto depositato dalla Lazio, ha deciso di non venire, di rimanere in Argentina. E dunque la Lazio è stata affidata a Simone Inzaghi. Questo giallo si conclude così, in maniera, credo amara per la Lazio, che già si è riservata azioni legali. Bielsa è un grande personaggio, però in questo caso davvero non si riesce a trovargli una mezza giustificazione, dato che quel contratto non l'aveva firmato il suo sosia, ma lui in persona. Ti ringrazio, grazie Carlo Genta, che ritroviamo come sempre dopo le 14, dopo il GR d'Europa 24 con tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo dopo il traffico e iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Il nostro giro per l'Italia inizierà da un paese del veneziano. Ieri è una storia che non siamo riusciti a trattare, che anche se ve l'avevamo annunciata, è la storia di un piccolo paese, 2800 abitanti alle spalle di Chioggia, 2800 abitanti e 600 tra profughi e migranti, un vero paradosso dell'accoglienza. E poi parleremo di questo movimento Trieste Libera, un gruppo di persone che ha deciso che non paga più le tasse e c'è una guerra di carte bollate. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della strage a Dallas, dove un gruppo di cecchini ha sparato sui poliziotti e ne ha uccisi 5, il tutto durante una manifestazione contro le violenze contro gli afroamericani proprio da parte delle forze dell'ordine. Torneremo a parlarne in America 24. Abbiamo parlato di banche, oggi c'è stata l'assemblea dell'ABI e i riflettori restano puntati su Monte dei Paschi. Abbiamo parlato della vicenda del richiedente asilo ucciso a Fermo, abbiamo parlato di calcio e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo continuando a parlare di immigrazione. Il primo punto sulla mappa che trovate sul sito www.radio24.it nella sezione di Effetto Giorno, il primo punto sulla mappa che mettiamo lo mettiamo a Cona e siamo in provincia di Venezia alle spalle di Chioggia, quindi proprio nell'area veneziana, e abbiamo in linea il sindaco Alberto Panfilio che ieri non siamo riusciti a parlare, che abbiamo recuperato. Innanzitutto ci scusi perché abbiamo fatto stare in linea e poi buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Allora, come si diceva, Cona, 2800 abitanti e 600 tra profughi e migranti, raccolti in una struttura che, da quel che ho capito, sindaco, non è né un hub né una struttura di accoglienza regolare, niente di tutto ciò, no? Assolutamente no, io rettifico un attimo i numeri, anzi li integro per dire che, essendo un comune molto vasto di 64 chilometri quadrati e 700 persone sono accatastate in una ex base militare dell'esercito, in una frazione di 190 abitanti. Dunque quello che dobbiamo capire è come questo abbia influito nella vita di questi 190 abitanti. Premetto che io sono a favore dell'accoglienza, sono a favore però anche della civiltà, e accatastare 700 persone in questo modo decreta il fallimento totale del progetto di accoglienza di questo governo e di chi lo sta appunto regolando. Sindaco, questo... allora guardi, le voglio dire questo, era esattamente su questo tema che noi volevamo appuntare l'attenzione, perché poi noi raccontiamo singole storie, andiamo nel territorio, ma in realtà se vogliamo, per parlare anche di problemi più vasti, si prenda l'esempio di Palermo, dove ieri è stato lanciato l'allarme perché sono a circa 1000 minori non accompagnati e non sanno come gestirli, ne sono arrivati altri 120 nella giornata di ieri. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, su questo fronte ha lanciato un allarme. C'è chiaramente un problema di gestione dell'accoglienza che non funziona. Abbiamo raccontato anche nelle ore scorse il caso di Vicenza, dove il prefetto sta insistendo e sta dicendo signori, qua bisogna fare un'accoglienza diffusa, proprio perché ci sono una serie di comuni che decidono di non accogliere e altri comuni, come il suo per esempio, no, sindaco, che si ritrovano centinaia di persone. È vero, anche se i comuni non devono decidere di accogliere, ci sono dei bandi a cui le cooperative partecipano, i comuni possono aderire ai bandi SPRAR che sono relative ai piccoli gruppi che vengono poi integrati. È una balla in cui si dice il comune che non li vuole o li vuole, lo fanno solo per speculare a livello politico e durante le elezioni qualcuno ha tratto anche beneficio. Non esiste il comune che li vuole o non li vuole, nel senso che ai bandi non partecipa il comune, partecipano le cooperative che trovano i luoghi di solito in affitto. Qui ormai nella nostra provincia nemmeno le cooperative partecipano più ai bandi e dunque è un fallimento totale, e ogni volta che vengono diciamo così scaricati nel vero senso della parola dei migranti, li continuano a portare nel nostro sito appunto di Conetta, frazione di Cona, perché non hanno altra soluzione. Questo è il fallimento, bisogna allora pensare a una nuova soluzione. Sindaco, qua c'è qualche ascoltatore che in qualche modo prego, contesta con una domanda via SMS l'utilizzo del termine, che però credo che fosse voluto, no? la forzatura di accatastati, perché in effetti sono in 700 in una struttura che non li potrebbe sono contenere. Sono assolutamente accatastati, io li ho visitati e sono in condizioni non civili. Io da italiano mi vergogno di dover dare assistenza e accoglienza e protezione in condizioni del genere, ma qui non si sa più santo pigliare. Dovrebbero pensare anche i presidenti delle regioni che hanno firmato questo accordo Stato-Regioni per la diffusa, e il problema esiste, si deve ritornare al tavolo, chi ha il potere di rivedere questa modalità deve evitare questi, ripeto ancora, accatastamenti, perché li ho visti dentro, l'altro giorno si sono accoltellati, succedono le criticità, nascono appunto dal fatto che non sono distribuiti in una maniera civile. Effettivamente è così. Sì, perché c'è stata una rissa, sindaco, no? L'altra sera. Non è stata la prima, ovviamente, quando metti insieme per molti mesi, ricordiamoci che è passato un anno e devono ancora definire lo status dei primi ospiti della base, e etnie diverse, religioni diverse, non fanno niente la mattina sera, ma non a colpa loro, la responsabilità è delle istituzioni che non velocizza la definizione dello status, e secondo me il governo doveva richiedere giudici da tutta Europa per potenziare le commissioni, perché tanto in commissione si parla inglese, non si parla italiano, bisogna potenziare le commissioni per definire lo status dei rifugiati, chi ci può stare ci sta e gli altri si accompagnano a casa. Esatto, cosa come succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Risparmio di denaro. Certo, è certo. Allora, sindaco, io la ringrazio per la sua testimonianza, che in qualche modo risponde anche all'ascoltatore che via WhatsApp ci dice: fino a quando non verranno rimpatriati quelli che non hanno diritto a restare, di cosa state parlando? Ma infatti, come ci diceva il sindaco, il problema è esattamente quello: la lentezza con la quale le commissioni che devono stabilire lo status di rifugiato stabiliscono lo status di rifugiato. Raccolgo anche la segnalazione, magari ci andremo nei prossimi giorni, dell'ascoltatore che ci dice: a Botta di Sedrina, provincia di Bergamo, 140 extracomunitari su 900 abitanti. Anche qua, come vedete, situazioni che rischiano di diventare critiche. Cambiamo decisamente argomento, il prossimo punto sulla mappa lo mettiamo a Trieste. Roberto Giurastante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che è a capo di questo movimento che si chiama Movimento Trieste Libera, che qualcuno ha definito una carnevalata mediatica. 229 cittadini che hanno deciso di non pagare più le tasse. Beh, allora innanzitutto il nostro è un movimento politico che rappresenta i cittadini di Trieste, del territorio libero di Trieste, e la causa che noi sosteniamo è ovviamente tutt'altro che una carnevalata. È stata davvero infelice la scelta da parte di quei giornalisti che hanno dato questo titolo ad un articolo per una questione che è veramente molto seria. Sì. Allora, ci spieghi su quali basi voi decidete di non pagare le tasse, perché poi appunto queste tasse, come sapete, sostengono una serie di cose. Oggi tra l'altro ha firmato un articolo Massimo Gramellini, prima pagina sulla Stampa, nella quale dice: occhio però, cioè, voi non pagate le tasse, però poi gli ospedali li usate, le strade le usate, eccetera eccetera. Allora, innanzitutto bisogna partire dalla situazione di diritto di Trieste, perché si fa appunto qui confusione. E Trieste è appunto lo status giuridico di Trieste è quello di uno Stato indipendente che non c'entra nulla con la Repubblica Italiana. Questo è il territorio libero di Trieste che nasce precisamente con la firma del Trattato di Pace il 10 febbraio del 1947 e che viene istituito con l'entrata in vigore del Trattato di Pace il 15 settembre del 1947. Allora, questo Stato è stato poi dato in amministrazione provvisoria, prima al governo militare alleato fino al 1954 e successivamente da parte del governo militare alleato al governo italiano. Quindi lo Stato italiano, cioè la Repubblica Italiana, qui non c'entra nulla perché è un paese terzo. E quindi questo è il primo punto fondamentale da capire. Perché noi non ci rifiutiamo. Cioè voi sostenete che quello è uno Stato indipendente. Questo è uno Stato indipendente. Che Trieste è uno Stato indipendente. Finché il Trattato di Pace non verrà modificato. Ad oggi non ci risulta sia mai stato modificato e naturalmente nessuno è mai riuscito a dimostrare dove siano avvenute queste modifiche. Quindi noi non ci rifiutiamo oltretutto di pagare, come scorrettamente invece è stato detto, le tasse. Stiamo lottando da 4 anni chiedendo di poter pagare le giuste tasse per l'amministrazione del nostro territorio, del nostro Stato. Ma in quanti siete alla fine? Scusi? Ma allora, intanto non sono 229 le persone che hanno presentato quest'atto, ma sono molte di più. Abbiamo comunque... Molte di più quante, scusi, giurastante? Questo atto è stato preceduto da una richiesta formale presentata al governo amministratore italiano e per conto di questo al commissario di governo. Quanti? Allora, abbiamo presentato per opposizioni fiscali circa 1000, sono state presentate circa 1500 richieste. 1500 richieste di opposizione fiscale. Per quanto riguarda non solo questa richiesta, ma anche altre, perché siamo intervenuti per richiedere che vengano riconosciuti tutti i nostri diritti civili, stiamo parlando di faccia capire, di quindi la vostra non è una rivolta fiscale, di fatto, è un tentativo di dare indipendenza a Trieste? No, non è un tentativo di dare indipendenza. Trieste è indipendente ai sensi del Trattato di Pace in vigore. Si tratta di ripristinare solo la legalità. Quindi non una rivolta fiscale. Ma non è una rivolta fiscale. Noi abbiamo chiesto di... noi innanzitutto sentirci chiamare evasori fiscali, insomma, ci dà alquanto fastidio. Se uno non paga le tasse... Mi scusi, giurastante, però abbia pazienza. Se uno non paga le tasse... Se uno non paga le tasse non va ad autodenunciarsi. Allora sarebbe il primo caso in cui, appunto, chi non paga le tasse va direttamente dal capo del governo a dire guarda che non le pago. Ovviamente lo abbiamo comunicato motivando le nostre richieste e chiedendo invece di poter pagare le tasse. Poter pagare le tasse che sono dovute per il territorio libero di Trieste. E quanto sono dovute? E che tasse sono dovute per il territorio libero di Trieste? Questa è la risposta che non è mai stata data dall'attuale governo amministratore provvisorio che è rappresentato appunto dal commissario di governo. Figura che esiste infatti solo a Trieste. Bene, questo commissario di governo non ha dato queste risposte. Sì. Vi ha detto che sono inevitabili sanzioni e pignoramenti, no? Ha detto che sono a suo giudizio inevitabili, ma ha detto una cosa naturalmente ancora più grave, ovvero che sono inevitabili in quanto Trieste appartiene alla Repubblica Italiana. Ora, io sfido chiunque a dimostrare che il Trattato di Pace, l'articolo 21 del Trattato di Pace, che stabilisce che Trieste invece è uno Stato indipendente, non sia in vigore. Allora, facciamo una cosa, giurastante, vediamo come andrà a finire, ho l'impressione che siamo agli inizi di questa vicenda e vediamo come andrà a finire. Io intanto la ringrazio, grazie Roberto Giurastante, Movimento di Trieste Libera, per aver accettato il nostro invito, anche se ho qualche sospetto che fosse più adatto alla zanzara. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa, quella di oggi, una buona giornata, e poi vi racconteremo una storia in particolare, non in particolare da un territorio, ma una storia che riguarda i bambini adottati dal Congo. È una vicenda che abbiamo seguito molto e adesso c'è un'inchiesta che si è aperta perché ci sarebbe un vero e proprio traffico, insomma, adozioni in cambio di pagamenti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la strage a Dallas, un gruppo di cecchini ha sparato sui poliziotti e ne ha uccisi 5, e si cercano a quanto pare bombe in città. Il panico tra la folla che era raccolta per una marcia contro le violenze contro gli afroamericani da parte delle forze dell'ordine, un attacco feroce e premeditato, dice Obama. Sono solo 15 miliardi le sofferenze bancarie più a rischio, lo dice il governatore della Banca d'Italia Visco. Per MPS un piano di smaltimento veloce dei crediti non esigibili, scrive il Sole 24 Ore. Attesa per l'autopsia di Emmanuel, ucciso da un razzista nelle Marche, servirà a ricostruire la dinamica. Aggressione di un migrante in spiaggia in Calabria. Il calcio sarà dunque Portogallo-Francia alla finale degli europei. In Italia intanto Bielsa lascia alla Lazio, la squadra ad Inzaghi. Alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, sta partendo la discussione via SMS e su WhatsApp sull'intervista che abbiamo fatto poco fa con Roberto Giurastante del Movimento Trieste Libera. Bene, potete scriverci effettogiorno@radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook, così magari ne parliamo, per così dire, di persona, anche se virtualmente. Adesso ci occupiamo di una vicenda che riguarda le adozioni. Una rete di trafficanti di bambini ha cercato di far entrare in Italia minori non abbandonati ma sottratti ai loro genitori in Congo. I casi sono almeno 5, le loro sentenze di adozione li dichiarano orfani ma hanno famiglie che li reclamano. È quello che sostiene l'Espresso in un'inchiesta pubblicata oggi. Radio 24 da mesi vi racconta la vicenda dei bambini del Congo adottati in Italia, bloccati a Goma per 2 anni. Sentiamo. È un mondo dove gira denaro e ovunque giri denaro ci sono interessi. I bambini stanno dicendo che non era vero che erano orfani, mentre ai genitori è stato detto a tutti che erano orfani. Così Silvia Agnoletti, una delle mamme adottive in attesa per il Congo, che ha dovuto cambiare paese perché è insospettita dalle pratiche opache. Oggi l'Espresso parla di una rete di trafficanti di bambini che ha cercato di far entrare in Italia minori non abbandonati ma sottratti ai loro genitori in Congo. L'ente tirato in ballo è AIBI. Il presidente Marco Griffini rigetta le accuse al mittente. Sono stati rapiti 9 bambini. In questo centro, di cui 4 erano adottati. Quando abbiamo avuto in mano i verbali di chiusura delle indagini, in quel momento noi abbiamo informato l'autorità di controllo. Purtroppo la CAI non ha mai risposto, quindi ho pregato le autorità locali di procedere alle verifiche di tutti i nostri dossier, cosa che hanno fatto, e in questa verifica è risultato che i nostri dossier e quelli degli americani erano corretti, però sono risultati purtroppo altre anomalie per dossier di altri enti. Abbiamo allertato subito la CAI, abbiamo presentato una denuncia per traffico di minori contro ignoti alla Procura di Milano. Chi in Congo c'è stato per sciogliere la vicenda è l'eurodeputato e già presidente della Commissione Adozioni Internazionali, Cecil Kieng. Proprio per questo motivo che il Congo aveva bloccato, per cercare di interrogarsi internamente e vedere chiaro in tutte le procedure, perché c'erano molte irregolarità. Quindi il Congo sosteneva questo, che questi bambini fossero stati rubati? Non da parte dell'Italia, da parte di... intermediari? Sì, esatto, perché la corruzione è altissima, però non possiamo negare che il tema del giro, anche del traffico di minori rimane, continua. Anche a scopo di adozioni. Forte. Sì, credo che oggi quello che serve è proprio di rivedere un pochettino tantissime cose, la legge sull'adozione internazionale. Quello che posso dire anche pubblicamente è che c'è un traffico di minori e questo non lo possiamo negare. Finiscono in tanti giri, il primo anche nel giro della prostituzione, nel traffico di organi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso mettiamo un altro punto sulla mappa nel nostro giro per l'Italia. È un punto sulla mappa però nel quale vi parliamo di qualcosa di allegro, di un bel festival che inizia, di una grande tradizione che si ripete, è quella di Umbria Jazz. c'è qualcosa, un'attrazione pazzesca verso su di me questa musica, come penso su tutti quanti noi. Sarà Massimo Ranieri ad aprire Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Anche quest'anno il festival, che si concluderà domenica 17 luglio, ruoterà attorno alla formula della contaminazione e della mescolanza di generi. Dopo Massimo Ranieri sarà la volta del pop di Mika, poi del grande chitarrista blues Buddy Guy, per passare al funky di Fred Weasley. Mentre nel segno del grande jazz si andrà da Diana Krall a Stefano Bollani, da Chic Corea a Pat Metheny in coppia con Ron Carter, dagli Steps Ahead all'inedita partnership John Scofield, Brad Meldau, Mark Gilliana, da Marcus Miller al quartetto di Branford Marsalis con Kurt Elling. Tanti anche i grandi jazzisti italiani come Danilo Rea in coppia con Ramin Barami per una rilettura di Bach, ma anche Roberto Gatto e Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella ed Ezio Bosso. In esclusiva per Umbria Jazz si esibirà anche il 13enne enfant prodigio indonesiano Joy Alexander. Il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta. Alle critiche rispondo che anche nell'87 mi criticarono per Sting e Gil Evans, quindi certe critiche lasciano il tempo che trovano. Tutti i festival più importanti fanno contaminazioni, specialmente chi ha uno spazio grande come il nostro. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è Mario Platero con America 24 che ci parlerà anche di quello che è avvenuto a Dallas. Ci risentiamo come sempre alla fine per i saluti.